mi ha fatto rabbrividire, perché non c'è limite al peggio, cioè nel senso che questi, oltre ad aver costituito una vera e propria associazione criminale, insomma delinquere, finalizzata al riciclaggio, alla corruzione, ma giocano sui sentimenti delle persone. Credo che in parecchi, io almeno, mi è capitato purtroppo di avere defunti in ospedale e quindi non sapere assolutamente cosa fare, e quindi cercare le notizie, le informazioni su come procedere a tutti quelli che sono i riti necessari per queste cose. E quindi ci si affida alla buona volontà, ci si affida alla sincerità, ci si affida alla disponibilità delle persone che hai vicino, a cominciare dagli infermieri. Ma io avrei pensato che ci fosse un'operazione di questo tipo. Poi non sono talmente ingenuo da non pensare che non ci potesse essere una qualche riconoscimento, magari all'infermiere che segnala, o anche se di sottobanco, l'indirizzo dell'agenzia. Ma arrivare a questi livelli è veramente allucinante, insomma. Non c'è limite all'abbassamento dell'etica nella nostra collettività. Da questa inchiesta, che in realtà, come dire, l'ultima di una serie di inchieste simili in giro per l'Italia, emerge il fatto che, come dire, il business criminale non si ferma davanti neanche ai morti. Se sono veri, non ho motivo di dubitare che non lo siano. I dati che vengono riportati dai giornali, si parla di un business da oltre 3 miliardi e mezzo, quindi vuol dire che la stragrande maggioranza delle agenzie funebri in Italia si comporta così. Io continuo a pensare, a sperare che così non sia, ma se sono come a Bologna, siamo veramente messi molto, molto male. Io spero che le indagini proseguano e se vengono confermate queste persone vengono giustamente colpite per quello che hanno fatto, non tanto per i soldi, non sono 200 e 300 euro, che pure è un fatto grave, ma per aver colpito le persone in un momento di difficoltà, nel momento in cui muore una persona cara, un amico, un parente, e quindi tu lo aggredisci e lo colpisci in questa maniera. È veramente da vigliacchi. Questo, diciamo così, settore criminoso, chiamiamolo così, non è molto noto, anche perché spesso, come dire, il tema del fine vita è un tema rimosso anche dal dibattito pubblico. Sì. In base alla tua esperienza, appunto, voi come Libera seguite la questione, appunto, delle attività mafiose, questo genere di truffa, di racket, ha queste caratteristiche oppure no? No, io con questi livelli no. Poi è chiaro, anche qua, facendo un discorso molto generale, questi signori, parlo dei mafiosi, cercano di occupare tutti gli spazi dove si individuano affari, e quindi non è da escludere che abbiano posto, o anche questo settore sia attenzionato da loro. Le informazioni che noi avevamo, cioè noi non avevamo informazioni dirette di una tipologia di reato di questo tipo, cioè associazione per delinquere finalizzata a corruzione e riciclaggio di tale intensità, di tale estensione. Sapevamo purtroppo, e questo penso lo sia una conoscenza diffusa, che in alcune zone della città non si ha rispetto per i morti, tant'è vero che il legno delle bare dei defunti spesso viene usato, o a volte è stato trovato per fare legna nelle pizzerie di alcune città. Ma io, almeno la nostra conoscenza era limitata a episodi, peraltro episodi di questa natura, non di quest'altra, però, appunto, ripeto, non questo a nostra conoscenza, insomma. Riterebbe, insomma, di essere approfondito forse anche a livello nazionale. Certo, fra l'altro nei prossimi giorni noi abbiamo un incontro importante dell'ufficio di presidenza con i referenti regionali, proverò a capire anche da loro, da chi segue questo settore, se ci sono elementi, ma ripeto, io non ne ho mai sentito parlare, quindi probabilmente o il fenomeno non è mai stato seguito, almeno da un punto di vista mafioso, della partecipazione della criminalità organizzata di stampo mafioso. Poi questa è sicuramente criminalità organizzata, perché appunto si parla di decine e decine di persone che sono in rete per costruire una vera e propria piramide, che a partire dalla base arriva fino agli infermieri, fino a coloro che hanno rapporto diretto delle agenzie di pompe funebri con la salma. Quindi è una vera e propria criminalità organizzata, non è, almeno per quanto è dato sapere, di stampo mafioso, o almeno anche nelle rassegne stampe che noi riceviamo dall'Emilia Romagna, o che leggiamo anche in altre regioni, più episodi di questo tipo collegati alla mafia non ne ho mai trovati.